Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: oggi è venerdì e fin qua non c'è notizia, ed è anche il giorno della nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi di denaro pubblico. Devo dire che oggi la classifica avremmo potuto anche risolverla con quelle due pagine di inchiesta di Rizzo e Stella sui costi e gli sprechi in Campidoglio, oltre alla polemica di cui parleremo come dato di notizia, non come classifica, di quanto contesta la Ragioneria dello Stato e quindi anche il Ministero all'Economia e Finanze, ossia illegittimo il salario accessorio pagato dal Comune di Roma ai suoi dipendenti. Sono circa 24.000, tra il 2008 e il 2013 la giunta era quella di Gianni Alemanno, la parte variabile dello stipendio è passata da 66 milioni di euro a 345 milioni di euro. Cosa dice la Ragioneria dello Stato? Dice che la parte variabile della retribuzione non può essere erogata a pioggia, che nel mondo del privato è normale, cioè la parte variabile è un qualcosa in più che tu dai al raggiungimento di un obiettivo, perché te lo sei meritato, come a miglioramento complessivo del bilancio dell'azienda, ma non è che puoi darla a pioggia. Deve essere agganciata a voci e funzioni precise, ma nella giunta Alemanno non lo sapevano, come spesso non lo sanno nella pubblica amministrazione. Basta guardare il dato di quanti dirigenti vengono premiati anche al Comune di Roma, praticamente 15, furono solo 15 a non ricevere questo premio, che vuol dire, non si capisce, a questo punto datelo anche a quei poveretti 15, cosa hanno fatto di male se tutte le eccellenze si concentrano nel Comune di Roma. Non è un gran periodo per il Comune di Roma né per il sindaco attuale Marino, e mafia capitale, e vedremo gli sviluppi. Però ripeto, sarebbe bastato leggere degli sprechi in Campidoglio per fare la classifica della top 5. In realtà ci siamo allargati anche al resto e la teniamo così come elemento di paradigma. Dopodiché commenteremo anche quello che sta capitando su un mercato, in un listino americano di cui spesso non ci occupiamo, è il Nasdaq. Il Nasdaq ieri ha toccato i livelli più alti del 2000 e quindi dal tempo in cui ne parlavamo tantissimo, perché eravamo in piena bolla della new economy, qualcuno se la ricorderà ancora, e quindi il Nasdaq era il listino del futuro, la new economy contro la old economy. In realtà poi la new economy si è comportata come la old economy, nel senso che ha fatto una bolla, è esplosa e si è ricondotta su livelli più realistici del rapporto prezzo utile atteso. Ieri però il Nasdaq ha toccato appunto un record che non vedeva da 15 anni, e questa volta sì, c'è molta liquidità sul mercato, c'è un po' di bolla, ma ci sono anche altri elementi forse più seri di 15 anni fa. Più 1,22%, visto che parlavo di borsa, Milano in questo momento, più 0,55 Parigi, meno 0,26 Francoforte, più 0,32 Londra, meno 0,20 il Dow Jones in questo momento, e poi vi daremo anche tutto l'andamento del Nasdaq. Per quello che riguarda invece i titoli, CNH più 4,66%, Pop Milano più 2,80, Finmeccanica più 2,30 e ancora Mediaset più 2%, Intesa San Paolo più 2, UbiBanca più 1,90%, Enel più 1,70, Mediobanca più 1,60, Banco Popolare più 1,5 come Campari, Luxottica più 1,30 come Buzzi, Unicem ed Eni. Chi perde? Pochi titoli: Tenaris meno 0,80 come Terna, Ferragamo meno 0,70, ST Microelectronics meno 0,40, Enel meno 0,30%. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. È vero che i sindacati hanno dichiarato guerra se si dovessero toccare gli stipendi dei dipendenti. Ora, nessuno penso possa toccare gli stipendi dei dipendenti del Comune di Roma, E non era questo quello che ha fatto notare la Ragioneria dello Stato. Ha detto che se si dovesse restituire all'erario, quindi a noi, ai romani in realtà in questo caso, i soldi dati in maniera ingiustificata a pioggia a tutti i dipendenti, ci sarebbe un buco nel bilancio del Comune di Roma di 350 milioni di euro. Ok? Però c'è una recente sentenza che prevede che non possa essere richiesto ai dipendenti di restituire l'importo in debito, e quindi dovrebbe essere un buco tout court dentro il bilancio del Comune, che è già in difficoltà il Comune di Roma, oltre che per gli scandali, dopo la pulizia effettuata sui crediti inesigibili, cioè tutto un insieme di crediti che il Comune non rivedrà più indietro, ammontano a 850 milioni di euro. Intanto sulla questione la Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo di indagine. E pochi minuti fa, dovrebbe essere iniziato da pochi minuti, l'incontro tra il sindaco di Roma Marino e i sindacati per discutere della questione del salario accessorio alle 17. Faccio notare una cosa senza troppa polemica. I sindacati giustamente intervengono molte volte, ma mai una volta, forse non l'abbiamo vista noi le agenzie, che siano intervenuti in sto paese per dire no ai premi a pioggia a tutti i dipendenti. Non è etico, non è morale, non c'è merito. Vogliamo che i premi vengano dati in base ai risultati, in base al metodo, in base alla valutazione. Quando c'è da distribuire i premi c'è un silenzio nelle associazioni sindacali che rappresentano il pubblico impiego assordante, notatelo bene. Poi se tocchi una cosa si va al Grande Fratello sul Jobs Act, adesso ti spieranno col telefonino, sì, vabbò, però mai un sindacato che abbia alzato la testa per dire no, scusatemi, non puoi distribuire i soldi in quel modo a tutti i dipendenti, anche se sono nostri associati, è sbagliato. Però adesso hanno detto che faranno sciopero ed è inaccettabile che i dipendenti ritornino questi soldi, e infatti non lo possono fare per legge, quindi stia tranquillo il sindacato che si è svegliato adesso mentre dormiva prima. Allora, le altre notizie, il Nasdaq intanto fa meno 0,1%, le altre notizie di carattere internazionale, abbiate pazienza, ne parleremo del Nasdaq. C'è un'altra borsa invece che va male, e non va male solo da ieri, mi riferisco a Shanghai, ha chiuso in calo del 6,42%, ed è proprio Shanghai, perché Hong Kong ha chiuso in variata, l'indice sostanzialmente ha perso più del 13% dai massimi dell'anno. È la prima vera correzione del mercato cinese, dei titoli della borsa cinese, dal gennaio 2014, influenzato soprattutto da prospettive di crescita per l'economia cinese meno robuste del previsto. La Grecia sta chiedendo da tempo una moratoria in qualche modo sul suo debito. Noi oggi invertiamo i termini, oggi facciamo la moratoria sulla Grecia, nel senso che non parliamo, o parliamo pochissimo, di Grecia, in attesa del super vertice. Poi ci sarà il super super vertice, poi super super super vertice di lunedì. Anche oggi dichiarazioni in ordine sparso, perché al di là dell'incontro, adesso ascolteremo alcuni passaggi, ma al di là dell'incontro di Tsipras con Putin, c'è una dichiarazione di Juncker, del Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, allo Spiegel, che ha detto non capisco Tsipras, l'ho sempre avvertito del fatto che non mi è possibile evitare il fallimento dei colloqui ad ogni costo. Berlino, il portavoce di Angela Merkel, Stefan Seibert, dice non è troppo tardi per un accordo, ci dispiace che ieri non sia stato fatto un passo in avanti. E poi il ministro delle finanze spagnolo Luis de Guindos, che ha detto la Grecia può andare avanti ancora per giorni, non per settimane, ed è difficile dire per quanto tempo potrà evitare di dover imporre controlli sui suoi movimenti dei capitali. Un'altra botta di allegria de Guindos. Ieri non siamo arrivati a un accordo, ma credo che le istituzioni e l'Eurogruppo abbiano mostrato molta flessibilità. Sono preoccupato. Sapete che di solito sono ottimista su questo tipo di situazioni e cerco sempre di trovare la nota positiva. Credo che il momento sia delicato. Tutti chiedono di arrivare a un accordo, ma dobbiamo ricordarci che ci sono delle regole. La situazione della liquidità della Grecia è anch'essa delicata e credo che rimangano solo giorni, non settimane, per arrivare a un accordo. Sull'ipotesi corralitto, penso che ci sia ancora tempo per evitare questo scenario che prevede limiti alla libera circolazione dei capitali. Ripeto, spero si arrivi a una soluzione. Non è questione di settimane, ma di giorni. Questo fine settimana e lunedì prossimo dobbiamo trovare una soluzione, altrimenti tutto il contesto diventa ancora più complicato. No, effettivamente, pues, lo che ha sido sempre el escenario central se hace más complicado. Dicevo, moratoria sulla Grecia, nel senso che non sarà tema di approfondimento. Qualche notizia c'è oltre a queste dichiarazioni. Tsipras, dopo l'incontro con Putin a San Pietroburgo, l'Europa deve fare scelte coraggiose per il cambiamento. Anche la Grecia deve fare una scelta coraggiosa per il cambiamento. L'Unione Europea torni ai principi dell'origine, no all'austerità. Su questo, insomma, sul fatto che l'austerità abbia prodotto più danni che benefici, benefici pochissimi, siamo tutti d'accordo, tranne forse i tedeschi, i paesi satelliti. Mosca, consideriamo la possibilità di aiuti ad Atene. Guardate che qui la partita è interessantissima, perché ogni volta che Mosca dice che vuole aiutare Atene, la Casa Bianca alza il telefono e chiama Berlino. Se qualcuno fosse sfuggito questo meccanismo, perché gli Stati Uniti, più che essere preoccupati che, diciamo, l'1,8% del PIL europeo possa andare in crisi, sono preoccupati di un avvicinamento della Grecia ortodossa alla Russia ortodossa, dell'utilizzo che potrebbe fare la Russia, la richiesta che potrebbe fare la Russia di utilizzare alcune basi o alcuni porti o basi aeree greche, e quindi non capiscono come si possa buttare o spingere, diciamo, la Grecia nelle mani russe per l'1,8% di tutto il PIL europeo. Tant'è che c'è un'intesa preliminare fra Russia e Grecia per il passaggio del gasdotto Turkish Stream sul territorio greco, siglata oggi dai ministri dell'energia dei due paesi. Mosca fornirà ad Atene un prestito pari al 100% dell'importo del gasdotto, e Gazprom non controllerà la tratta. Poi il Cremlino ha aggiunto: gli aiuti ad Atene sono possibili, li possiamo anche dare, devi chiederceli Atene. Non male, come politica estera, cara cancelliera Merkel, non male, non male. Ma sì, riuniamo tutto il mondo ortodosso, così poi, no. Vabbè, il ministro dell'economia Padoan, il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan, ha detto: se ci dovesse essere lo sfortunato evento di un'uscita della Grecia, l'area euro dovrebbe approfittare dell'occasione per rafforzare la struttura della governance dell'area euro stessa. Il fatto che sia stato convocato non tanto l'Eurogruppo quanto un summit, un Euro summit, è evidentemente il segno che si ritiene, e io condivido questa valutazione, che ci siano margini per raggiungere un'intesa, che sarebbe ovviamente nell'interesse di tutti. Se ci fosse una Brexit, è chiaro che l'euro sarebbe una cosa diversa, cioè sarebbe una cosa che per alcuni non è più irreversibile. Proprio per questa ragione io auspico che nella, spero, lontanissima ipotesi di Grexit ci sia immediatamente o comunque rapidamente una accelerazione degli sforzi dei Paesi membri dell'euro per rafforzare l'architettura istituzionale. Da questo punto di vista non dimentichiamoci che all'ordine del giorno c'è la cosiddetta lettera dei 5 o 4 più 1 presidenti, che delinea proprio misure di questo senso, quindi sarebbe il momento adatto per accelerare i miglioramenti, e qui l'elenco delle possibili misure di rafforzamento è lungo. Se ci dovesse essere, ripeto, questo sfortunato evento di una Brexit, al di là delle cose specifiche per chi esce, l'area euro a mio avviso dovrebbe approfittare di questa occasione per rafforzare la sua struttura istituzionale. Posso cercare di tradurre con massimo rispetto il ministro? Se si arriva alle estreme conseguenze che la Grecia esce dall'euro, bisogna ripensare tutto il modo in cui l'euro viene gestito, perché insomma è un fallimento, sarebbe un fallimento per i greci, ma anche per questi grandi geni che stanno tra Francoforte, Berlino, Bruxelles e poi le varie capitali europee. Quindi Padoan dice: attenzione, bisogna ripensare l'intera architettura dell'area. E non è una cosa da poco, perché la governance non è una cosa, un inglesismo che fa figo, vuol dire semplicemente che in questo modo un'Europa fatta di unione solo monetaria e non di unione politica, in cui alla fine il rapporto è tra Atene e Germania, non regge, o perlomeno diteci se dobbiamo fare sempre solo gli spettatori, ce lo dica anche il governo Renzi, se l'Italia si è, diciamo, disegnata questo ruolo di spettatore di riguardo, con le poltronissime in tribuna, però sempre spettatore sei. Poi continua Padona, anche l'Italia sentirebbe la Grexit, ma non è il 2012. Se ci fosse uno shock come quello di una Grexit, i mercati finanziari, come sempre avviene, ne risentirebbero, e probabilmente ne risentirebbero anche i mercati finanziari italiani. Non mi stupirei né mi preoccuperei se ci fosse una variazione dei rendimenti o una variazione degli spread. Ma come ho detto varie volte, la situazione del 2015 è molto diversa dalla situazione del 2012, quindi la gente magari pensa che ci potrebbero essere situazioni in cui lo spread va a 500 punti base, in cui come nel 2012 si era veramente sull'orlo di un dissolvimento dell'unione monetaria. Oggi siamo molto lontani da quella situazione, l'economia è molto più integrata, abbiamo a livello di zona euro strumenti di gestione dell'unione monetaria gestiti dalla Banca Centrale Europea, che sono a disposizione, sono efficaci e potrebbero sicuramente contrastare ogni effetto di contagio determinato da una componente sistemica del rischio. La componente nazionale del rischio, cioè quella, diciamo, legata alla specifica situazione italiana, è molto contenuta ed è andata diminuendo in tutti questi anni, quindi ricordiamoci gli enormi progressi che la stabilità finanziaria ha compiuto in Italia. Sì, insomma, parliamoci chiaro, nessuno sa che cosa capiterebbe. Ha ragione il ministro Padoan a dire Mario Draghi ha creato delle condizioni completamente diverse dal 2012. LTRO e poi quantitative easing, quindi dando liquidità e fondi a disposizione. Però anche Padoan riconosce, certo, l'Italia ne risentirebbe, non come nel 2012. In realtà non lo sa nessuno. Ha ragione Draghi nel dire terra incognita, dai, non lo sappiamo, sappiamo solo quello che succede adesso. Se la Grecia esce, non sappiamo che tipo di pulsioni, ma non tanto nel brevissimo termine, nel medio e lungo termine arriverebbero. Di carattere anche centripeto in Europa. Preoccupato invece il presidente Confindustria Giorgio Squinzi, che ha detto beh, insomma, un'uscita della Grecia creerebbe una situazione complicatissima, serve volontà politica e discorso europeo a tutto campo. L'uscita della Grecia dall'euro annullerebbe i benefici della politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea, dei bassi tassi di interesse, di un euro ai minimi storici e dal calo del prezzo del petrolio, frenando il rilancio dell'economia europea e la timida ripartenza italiana. Tutti i benefici finirebbero sommersi dall'ondata di instabilità che travolgerebbe i mercati, l'euro e forse di conseguenza l'Europa intera. Adesso arriviamo alla classifica, alla poco invidiabile classifica di Focus Economia del venerdì. Prima però i 100 secondi di Radio 24, quelli che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, dedicati oggi a una partita che è in ballo da tempo, e oggi sul sole24ore.com trovate un'anticipazione, un'indiscrezione secondo cui, mi riferisco alla Cassa Depositi e Prestiti, il governo Renzi vuole cambiare i vertici, Franco Bassanini e l'amministratore delegato Gono Tempini. Dico semplicemente come dato di fatto che la gestione Bassanini, Gono Tempini ha portato a far crescere e di tanto gli utili della Cassa Depositi e Prestiti, che alcuni vorrebbero trasformare in una nuova IRI, e noi ci auguriamo di no, perché ha i risparmi degli italiani, anche gli risparmi degli italiani. Ci fu il famoso no detto dai vertici della Cassa Depositi e Prestiti a un ingresso per la vicenda Ilva di Taranto, qualcuno di voi la ricorderà, poi parleremo anche dell'IVA di Taranto ma per altri motivi. Dicevo, oggi secondo quanto riporta il Sole24ore.com a dimettersi dovrebbe essere solo il presidente Franco Bassanini come risultato dell'accordo tra governo e fondazioni. Le fondazioni esprimono infatti e hanno un peso importante per quello che riguarda la Cassa Depositi e Prestiti. Il commento e l'analisi del vice direttore del Sole24ore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Cosa succede alla Cassa Depositi e Prestiti? Il governo ha lasciato intendere che vuole cambiare i vertici di quella che è una società particolare, perché vive sostanzialmente del risparmio postale. È partecipata all'80% dal Tesoro e per il restante dalle fondazioni bancarie. Ha un utile di 2,7 miliardi, all'attivo è scritta una somma di 350 miliardi, certifica partecipazioni per almeno 30 miliardi e ha iniettato nell'economia altri 90 miliardi nelle diverse iniziative di politica industriale. Insomma, un colosso che controlla il fondo strategico per la partecipazione nelle imprese del Made in Italy, quello per il social housing, controlla la SACE che fornisce servizio assicurativo alle aziende che esportano, la Simest che è la società che investe in partecipazioni temporanee per aziende export oriented, la Cassa Depositi detiene anche partecipazioni in Eni, Terna e controlla il 100% Fintecna. Insomma, una cassaforte, un colosso su cui il governo Renzi ha messo gli occhi e vorrebbe utilizzarlo con più velocità per grandi partite strategiche come quella sugli investimenti per la banda larga e la digitalizzazione del paese, magari superando anche certe resistenze di Telecom. Per farlo il governo ha già annunciato che intende sostituire l'attuale presidente Franco Bassanini e l'attuale AD Giovanni Gorno Tempini con rispettivamente Claudio Costa Magna e Fabio Gallia. Operazione non indolore però, visto che le fondazioni bancarie, cui spetta per statuto la nomina del presidente, hanno chiesto tempo e dettato nuove condizioni, dando sostanzialmente uno stop all'operazione. Insomma, una vicenda complessa che riguarda il risparmio postale, quello più caro e più sacro per le famiglie, ammantata con scarsa trasparenza nei piani strategici e affidata finora a un tentativo grezzo di spoil system e, diciamo la verità, anche un po' rozzo. Sarebbe ben singolare se il governo Renzi avesse deciso di fare una nuova IRI e avesse deciso anche di non dirlo a nessuno. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Quando caldo e sudore ti spossano, su con Sustenium Magnesio e Potassio e Menarini. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Focus Economia. La classifica della settimana. Eccoci arrivati all'appuntamento del venerdì, il poco invidiabile appuntamento. Dunque, è una classifica falsata, ripeto, perché avremmo potuto fare la classifica guardando e leggendo oggi cosa scrivono Rizzo e Stella sul Corriere sulla gestione del Campidoglio e poi ti chiedi perché ha questi buchi di bilancio e soprattutto dell'ATAC, con buona pace dei sindacati. Il sindacato dentro l'ATAC è potentissimo, eh? Vabbè, comunque, però era talmente facile che non c'era lavoro da fare. A noi piace invece cercare notizie e lavorare su queste, quindi la usiamo, diciamo, come riferimento, come premio alla carriera, non si può dire, come un premio, una laurea honoris causa per il Comune di Roma, e vi arriviamo. Partiamo dal basso con cose che possono anche far sorridere, però in realtà mica tanto. Piccola, ma sì, dai, questa può venire, adesso non è che abbia fatto, però io vorrei sapere come a Vercelli si sono accorti, pensa che le Fiamme Gialle hanno dovuto svolgere indagini, appostamenti e hanno scoperto che c'era una insegnante di Prato, però si è occupata la Guardia di Finanza di Vercelli perché si era trasferita nel Vercellese durante il periodo di mutua. Cosa aveva fatto? Lei era in malattia a periodi alterni. Però in questi 4 anni, dal 1 settembre 2009 all'aprile 2013, organizzava decine e decine di eventi, concerti e concorsi musicali in tutta Italia, con un'associazione no profit da lei costituita, quindi il massimo, no? Fai, ti metti in malattia e organizzi un'associazione no profit. Le Fiamme Gialle hanno fatto gli appostamenti, la donna aveva strumentalizzato una patologia per beneficiare dei giorni liberi dal servizio e dedicarsi così alla sua seconda attività, che pur essendo una società no profit permetteva alla signora di percepire 109.000 euro. Il procedimento disciplinare è in sospeso in attesa di definire gli estremi penali. L'insegnante è comunque segnalata alla Corte dei Conti per danno erariale. E voglio dire, di danno erariale dovremmo parlare anche nel caso di una vicenda che riguarda il comune di Cecina. Oggi c'è mezza Italia, non vi preoccupate, non c'è solo la Sicilia. Perché questa vicenda di Cecina, perché poi i comuni non riescono a spendere i soldi che hanno, ed è vero, c'è un patto di stabilità interno folle, ma mi spiegate come hanno fatto a Cecina? Già avevano fatto un casino, per essere buoni, con la pista di atletica, un impianto abbandonato al degrado per 26 anni, fu inaugurata il 1 luglio del 1989, costò 550 milioni di vecchie lire, mezzo miliardo, però fu abbandonata a se stessa perché mancavano gli adeguati spogliatoi e altre strutture. Quindi nessuno si mise in testa, dopo aver speso mezzo miliardo di vecchie lire, di adeguare gli spogliatoi e le strutture. Meglio lasciare la pista atletica, e quindi anche i giovani che avrebbero potuto utilizzarla, ferma, abbandonata a se stessa, al degrado. E quindi cosa succede? Le radici delle piante spaccano la gomma della pista atletica. Tra l'altro il colore diventa da rosso a nero, che perché non è un problema di colore, ma ne abbiamo viste poche di piste atletica nere, quelle in bianco e nero forse. Una falda qui farà fatto pure collassare buona parte della curva del lato nord-ovest. Finalmente a Cecina si riprende in mano la vicenda della pista atletica e vengono spesi altri 110.000 euro dall'amministrazione comunale per riportare ad antico splendore la pista atletica. Bene, 80 tonnellate di granulo, di gomma rossa e colla depositati in un mese di lavori e praticamente completati l'11 giugno. Oh, dico, vedi che l'Italia sta cambiando, cambia verso? Sì, cambia verso, ma c'è sempre qualcosa, è l'ultimo miglio che manca. Perché la Federazione Italiana Atletica Leggera non ha potuto convalidare la pista, e quindi non potrà mai essere omologata per le competizioni, non potrà mai essere luogo di gare, nemmeno quelle di dilettanti, nessun tipo di gara sarà possibile. Che cosa è successo stavolta? Gli spogliatoi sono buoni, hanno rifatto anche la gomma rossa e quant'altro. Sapete che hanno sbagliato? La lunghezza della pista atletica. Hanno sbagliato la lunghezza della pista atletica. Che voglio dire, uno corre 400 metri, si chiama 400 metri, non si chiama 399, 401, dipende dove vai. Sono riusciti a sbagliare la lunghezza per quanto? Per 8 centimetri. L'anello è di 8 centimetri inferiore rispetto al regolamento, quindi tu non corri 400 metri a Cecina, corri 399,2 metri, e se non corri gli 800, corri, adesso fate fare il calcolo, i 799, facciamo veloci il calcolo, 36, cos'è? 46, mamma mia, insomma hanno bloccato tutto, per cui da questo punto di vista la pista è ancora lì da guardare, ma non ci si può correre sopra per fare gare regolari di atletica. 8 centimetri, chissà come faranno negli altri paesi a non sbagliare di 8 centimetri. Misteri della ricerca scientifica. Allora, andiamo al terzo al terzo posto. Qui devo ringraziare un ascoltatore, che evidentemente la classifica qualche danno lo sta facendo, che ci ha segnalato una cosa molto interessante. E qui devo evocare una regione come la regione Calabria, che non è mai stata al centro come modello di efficienza. Perché? Perché lui è andato con la sua società, non posso dire chi è, una società privata, è andato alla fiera della ristorazione che si teneva a San Paolo del Brasile. Fiera della ristorazione, ci andavano gruppi, industrie che producono da attrezzature a servizi di assistenza, tutto per ciò che riguarda il mondo della ristorazione. Okay? Voi direte, chi va a una fiera del genere? Tutti? Ma ci va anche la regione Calabria? No, non è mica un'industria, non fa servizi di ristorazione, non produce manufatti, bene, macchine, utensili per la ristorazione. Eppure c'è andata la Regione Calabria. Se ne è accorto l'ascoltatore, ci ha scritto da San Paolo, dice: ma come, noi siamo andati per un 40 metri quadri di stand abbiamo dovuto spendere 30.000 euro più tutti i viaggi nostri, ma siamo lì in fiera, dobbiamo vendere i nostri prodotti. Accanto abbiamo uno stand di 120 metri quadrati, cioè tre volte più grande, che non espone nulla. Ci ha mandato anche la foto, non ve la posso far vedere, in effetti è proprio, c'è solo lo stand vuoto, vetrine vuote, un bel poster della Regione Calabria, visitatori zero, ma voglio capire, ma un brasiliano che va alla fiera della ristorazione andrà per motivo, per comprare forniture, macchinari, fare accordi commerciali, reti di vendita, che gliene frega lui di vedere le foto della regione Calabria? 120 metri quadri, però non c'è un brasiliano che vada a vedere sto stand. In compenso lo stand è pieno di funzionari calabresi della regione, e giustamente. E hanno scritto sullo stand: operazione finanziata con la linea di intervento 7.1.2.1 del POR. Uno potrebbe aggiungere POR.co. Del POR, Programma Operativo Regionale, e del FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Calabria 2007-2013. Ok. Pensate che la Cina ha pagato e ha portato le aziende, la Calabria va lì per portare in vacanza a San Paolo, immaginiamo di dentro la località, i funzionari della regione calabrese, e utilizza i fondi europei di sviluppo, quindi già ne utilizza pochi, quando li utilizza così, complimenti! Traffico e poi il numero uno, e insomma non è un ex aequo, il vero numero uno è il numero uno scelto da noi. Focus Economia. Di nuovo in diretta. Allora, vedo alcuni calabresi che... Non vi preoccupate, vi sorprenderemo. Oggi l'imprenditore che si è rimboccato le maniche e ha creato una società durante gli anni di crisi è calabrese, per cui non è che la Calabria sia solo negativa. Certo che quando leggi queste cose, diciamo che l'amministrazione pubblica calabrese assieme ad altre regioni non è mai brillato per efficienza e correttezza in generale, non in casi solo specifici. Allora, al secondo posto abbiamo messo chi? In realtà è una buona notizia, perché l'AMA, l'azienda municipale dell'ambiente a Roma, poi arriveremo al resto di Roma, ha licenziato due dipendenti. E voi dite, perché è una buona notizia? Perché la cosa brutta di questa vicenda è che avevano ottenuto i benefici previsti dalla legge 104, che è quella che dà, ed è una legge sacrosanta, che dà alle persone che hanno un parente, un figlio, un genitore malato, disabile e quant'altro, la possibilità di assentarsi sul lavoro. Allora, è particolarmente schifoso che uno, per andare in giro per negozi o lavorare da un'altra parte, lei è una donna di 36 anni, lui un uomo di 24, ci sono voluti 7 mesi di indagine e pedinamenti, addirittura i dossier di due investigatori privati pagati dall'AMA. I dipendenti chiedevano sempre il permesso della 104 in concomitanza del weekend. Ebbene, hanno scoperto che facevano tutt'altro. Ripeto, già l'assenteismo è un danno ed è una colpa. Se lo fai utilizzando una legge che serve a chi ha veramente una disgrazia in casa, sei un essere schifoso. E lo dico anche perché poi in realtà dentro l'AMA ci sono il 20% di tutte le assenze sono fatte con la legge 104. Gli aventi diritto sono 1486. Addirittura alcuni hanno due familiari malati e lavorano non per possono allontanarsi non per 3 giorni ma per 6 giorni al mese. Allora, tant'è che c'è anche un aggravio sui costi, però tutto questo sarebbe sopportabile se qualcuno non se ne approfittasse vigliaccamente. Il costo per l'INPS di oltre 4 milioni di euro, a questo costo va aggiunto anche quello di 7 milioni per l'AMA. Allora, avremmo potuto, adesso arriviamo al primo posto. Arriviamo al primo posto perché avremmo potuto premiare, come sarebbe stato giusto, l'inchiesta di Rizzo e Stella sugli sprechi in Campidoglio, l'ATAC con 12.000 dipendenti, gli autobus con un'anzianità media di 9 anni, 600 autobus su 2.300 inutilizzabili, addirittura vengono cannibalizzati i pezzi di ricambio. Gli autisti che fanno meno ore che a Napoli e a Milano, lavorano 736 ore l'anno contro le 850 di Napoli, le 1200 ore degli autisti di Milano, 970 autisti dell'ATAC di Roma che restano a casa ogni giorno su 6500. Ad agosto il tasso di assenteismo raggiunge il 22%. La diagnostica, tra l'altro la diagnostica per capire chi è inidoneo alla guida, fino al 2010 lo faceva l'ospedale San Giovanni e 50 autisti l'anno erano ritenuti non idonei. Adesso è passato al centro diagnostico Pigafetta, struttura privata, e sono diventati da 50 a 607 i non idonei. Pigafetta deve essere un istituto durissimo su questo. E poi l'amministratore delegato dell'AMA è indagato, è nell'inchiesta a Parentopoli, ha avuto una condanna a 5 anni e 3 mesi. Mitico Franco Panzironi guadagnava 545.000 euro l'anno, ma fu lui a gonfiare gli organici già gonfi con altre 1.500 persone, con il plauso del sindacato, che all'AMA è potentissimo, tanto da aver costretto l'azienda a firmare un accordo integrativo pazzesco. Complimenti al sindacato dell'AMA, niente da dire, è vero, su questo. Pensate che all'AMA c'era un premio di produzione a chi si presentava, per chi si presentava al lavoro almeno la metà delle giornate lavorative. Cioè, se tu lavoravi venivi premiato, bastava lavorare almeno la metà di quanto dovuto e non collezionare più di 5 giorni per motivi disciplinari. Potevamo mettere questo al primo posto, invece abbiamo scelto, perché era troppo facile, di raccontare il bando per la buvetta del Campidoglio, cioè cosa mangiano i consiglieri comunali al Campidoglio. No, è il bando vero, eh? Alla buvetta del Campidoglio è consentita solo la preparazione di piatti a base di verdura e frutta solo se di stagione. La freschezza deve essere mensile. In questo mese di giugno si potranno trovare asparagi, barbabietole, cavolfiori, cetrioli, coste, fagiolini, finocchi, funghi, insalatine, ma da luglio devono sparire gli asparagi, i finocchi, i cavolfiori e le barbabietole. In compenso possono entrare le coste e la zucca. La frutta a giugno può includere ciliegie e nespole, ma dal primo di luglio via e devono entrare angurie e pesche. La tazzina di caffè deve essere in ceramica o vetro, a seconda delle miscele. La miscela può essere arabica, canefora o robusta. Il caffè freddo d'estate va moltissimo, deve essere di 30 ml, sciroppo di zucchero 10-15 ml, ghiaccio quanto basta, i tramezzini non più di 90 grammi di peso, tutto nel bando. Possono essere farciti con cotto ed amero oppure con cotto e insalata capricciosa e funghi pratajoli. E poi le farciture di panini e toast vengono regolate con tutte le insalate possibili di verdura. La bresaola della Valtellina deve seguire le regole, deve essere preparata a partire dalle masse muscolari in un solo pezzo. I salumi previsti sono elencati, dalla mortadella al Milano al felino, e poi una lista interminabile di formaggi per coppa e capocollo. Il processo di stagionatura e maturazione deve compiersi lentamente, ammessi anche cosce bovine. Il processo di stagionatura deve essere compreso fra le 4 e le 8 settimane. Il segnale orario vi è offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. State ascoltando un programma offerto da... Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Focus Economia. Asiago Dop, Dallevo, Montasio, Fontina, Cedda, Edamer, Emmental svizzero, Emmental francese, Beaufort, Groviera, Gruvier francese, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Taleggio, Quartirolo, Tomini stagionati, Italico, Brie, Gorgonzola, Roquefort, Caprini freschi, Feta, Sbrinz, Pecorino, Camembert, Hoc. Scusatemi, stavo ancora leggendo mentre c'era il GR la lista della buvette del Campidoglio, ministro di salutismo e gran gourmet, eh? Niente male, anche sulla Valtellina tra le 4 e 8 settimane. Vabbè, non è certo questo il problema del Campidoglio in questo momento, ne parleremo fra un attimo, ma anche il bando per la buvette la dice lunga sulle brioche. Allora, intanto ringrazio invece per averci raggiunto in collegamento chi ci salva da questa valle di lacrime quando facciamo la classifica della top 5 della settimana. E allora grazie. Dicevo, è calabrese, ma cosa c'entra che sia calabrese? No, a dimostrazione che non è vero che arrivino solo brutte notizie da Calabria. Grazie a Luigi Tassone, presidente di Personal Factory. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Mi è venuto per la trasmissione. Grazie, no, mi è venuta una fame a leggere il bando di gara per la buvetta del Campidoglio, pazzesco. Comunque, sarebbe interessante vedere se, tanto così mi date del populista, vedere se lo stesso tipo di attenzione all'alimentazione che viene posta ai consiglieri comunali, a Roma il comune la pone anche nella mensa e nel menù dei bambini degli asili, perché vorrei capire se anche lì alternano frutta e verdura di stagione con dimensioni precisissime della bresaola o di mantellina e dei tipi di salumi e formaggi da utilizzare. No, per curiosità, per capire se c'è chi ha la buvette e c'è chi ha la mensa dell'asilo. Comunque, lei che cosa ha creato e quando e dove soprattutto? Allora, la regione l'ha citata prima lei, noi nasciamo in Calabria, anche se ormai ci siamo già allargati un bel po' da questa raggiunzione, per cui abbiamo già una sede a Milano e in vari mercati internazionali. L'azienda è nata circa 5 anni fa, nel 2010, e sostanzialmente è un'azienda molto innovativa, anche lo dimostra il fatto che abbiamo 3 fondi di investimento nel capitale della società, perché in Calabria noi abbiamo creato un modello di business completamente diverso in un settore in cui il lato processo si innovava molto poco. Il settore è il mercato delle costruzioni, i prodotti tipici per l'edilizia in particolare, e noi abbiamo applicato un'idea intelligente a un settore industriale che invece di solito è fatto da grandi numeri. Per spiegarglielo in poche parole, senza fare diciamo nomi di aziende, noi abbiamo replicato essenzialmente un modello di business che conoscono tutti, essenzialmente quello della macchinetta del caffè che si va a comprare in un negozio in cui ti vendono anche le cialde, ma quindi il vero business di questa azienda non è venderti la macchinetta del caffè, ma venderti la cialda. Noi abbiamo applicato lo stesso sistema nel mondo dell'edilizia, noi abbiamo sviluppato la nostra macchinetta del caffè, che è un impianto robotizzato di piccole dimensioni per produrre... Come si chiama? L'impianto si chiama Origami, ma l'azienda si chiama Personal Factory. Sì, no, quello nell'impianto mi riferivo, Origami? Origami, e sì, cosa permette di fare? Questo impianto permette di produrre qualsiasi prodotto in polvere nelle edilizie, quindi parliamo di colle, impermeabilizzanti, rasanti, pitture, ma il bello del sistema qual è? È che qualsiasi prodotto, di questi prodotti che ho appena citato, sono costituiti per un 98% da delle materie prime poverissime, sostanzialmente cemento e sabbia. Invece l'1 e il 2%, la parte chimica, conferisce le proprietà a queste materie prime per diventare i più disparati prodotti esistenti sul mercato. Noi abbiamo replicato quel modello di business, abbiamo inventato la nostra macchinetta del caffè e invece vendiamo la nostra cialda, che è il kit chimico. Le materie prime si trovano in loco e quindi grazie al nostro sistema chiunque nel mondo può diventare un produttore e seguire il mercato molto più da vicino. Senta, chi vi ha dato i soldi per partire? Beh, i soldi, quello è un bel tema. La società che è mia e di mio fratello è stata fondata quindi 5 anni fa, da subito noi abbiamo avuto l'interesse di fondi di investimento. In primis sono stati 2 fondi di investimento, Vertis SGR e Quadrivio SGR, che avevano comprato il 40% della società, e poi c'è stato un secondo round con un aumento di capitale in cui c'è stato l'ingresso di Intesa San Paolo attraverso il fondo Atalante Venture, che hanno comprato un ulteriore 9%. E quindi prima sono arrivati i capitali privati, private equity, e poi è arrivata Intesa San Paolo, ma il rapporto con le banche, comunque mi sembra, o con le banche, con i finanziatori, perché giustamente come linea di credito non c'è solo il mondo bancario, mi sembra che per voi sia stato abbastanza facile e virtuoso. Guardi, la situazione invece è particolare, nel senso che non ci riteniamo fortunati proprio di avere diciamo la finanza del capitale, quindi sicuramente siamo avvantaggiati da questo punto di vista. È comunque particolare il fatto che poi magari come banche noi abbiamo diciamo anche altri istituti, perché non c'è un collegamento diretto tra i fondi di investimento e magari le banche stesse. Quindi noi ci siamo rivolti sin da subito ai fondi di investimento proprio perché le banche non avevano i connotati e le corde giuste per, secondo me, comprendere un progetto del genere, non erano l'interlocutore adatto in quella fase. Invece lo sono stati i fondi di investimento che ci hanno creduto fin da subito e hanno messo i soldi nella società. Quanto fatturate e quanti dipendenti avevate all'inizio e quanti ne avete adesso? Beh, il fatturato ora si aggira intorno ai 2 milioni di euro, però basta considerare che noi siamo sul mercato da qualche anno, l'azienda è stata fondata 5 anni fa, però di fatto sul mercato siamo entrati solo 2 anni e mezzo, 3 anni fa. Il volume d'affari è anche superiore perché poi facciamo anche dei progetti di ricerca molto interessanti. Ma dov'è che fatturate, in Italia o all'estero? Più il 65%, 60% all'estero. Ok. Più o meno dipendenti. E in quanti siete partiti e quanti siete adesso, mi interesserebbe? Siamo partiti come una classica startup in 5-6 persone, anche se noi siamo una spin-off di un'altra azienda, e ora siamo già in una quarantina circa. Una quarantina. Avete assunto anche col Jobs Act o avete assunto prima o invece non avete assunto? Sicuramente abbiamo assunto e abbiamo fatto investimenti molto prima del Jobs Act. devo dire che comunque è uno strumento interessante che ci agevola anche l'assunzione, non stiamo facendo ora in questo momento delle assunzioni anche grazie a questo strumento, quindi sicuramente lo ritengo positivo. Ma il Jobs Act o la decontribuzione, che sono due cose diverse? No, devo dire che forse nessuno disprezza la decontribuzione, perché ovviamente è molto interessante. In particolare il Jobs Act io personalmente lo ritengo utile perché focalizza un po' di più l'attenzione su un singolo contratto, invece di avere una miriade di contratti di cui nessuno ci capisce nulla, e soprattutto se magari c'è un interlocutore estero non sa in che lingua parlare, perché ovviamente non è un discorso che lui è in grado di comprendere, una situazione italiana così da questo punto di vista. Invece il Jobs Act devo dire che semplifica molto la discussione e dà un po' di chiarezza nel settore. Oh, in bocca al lupo, come sempre facciamo a lei, ai 40 dipendenti. Quanti anni hanno in media i dipendenti che avete assunto? Beh, è una bella azienda proprio perché ci sono tanti giovani, io compreso comunque ho 29 anni, quindi sicuramente... E adesso però non è che un'azienda è bella se sono giovani, su, perché cosa facciamo dei 50 anni, 55 anni? No, però... L'azienda è bella però, perché lavora bene e funziona bene e premia il merito. Sicuramente serve anche una freschezza mentale, che nel nostro caso diciamo l'esperienza la prendiamo dalle persone vissute, quindi sicuramente ci sono delle persone con 50-60 anni che apportano le loro competenze, e poi c'è la mente fresca dei nostri giovani, la media intorno ai 30 anni, che danno veramente un ottimo contributo. Bene, in bocca al lupo a tutti, qualunque sia l'età, la mente, le do un consiglio, Tassone, lei è ancora giovane, ma la mente giovane non è solo in base all'età anagrafica, ci sono giovani che nascono vecchi e vecchi che sono... Poi dopodiché è importante avere diverse età e diverse dimensioni generazionali, perché ci sono quelli che nascono già grandi e non è in questo senso un complimento. Grazie, in bocca al lupo a lei e a tutti i 40 dipendenti, al di là dell'età. Luigi Tassone, Personal Factory, azienda di Vibo Valentia, traffico. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presenta Focus Economia. Diretta con Focus Economia, dunque ci scrive un ascoltatore, verificheremo, adesso non possiamo prendere tutte le segnalazioni, che la Regione Basilicata sta organizzando a brevissimo una crociera fino a Venezia di 5 barche a vela spendendo 600.000 euro comunitari per combattere l'obesità. Adesso grazie Piero da Potenza, verifichiamo, perché tutte le notizie prima le verifichiamo. Invece la borsa, dicevo oggi, borsa di nuovo in recupero, ma di nuovo molto attendista sulla vicenda greca, più 1% Milano, più 0,25 Parigi, meno 0,50 Francoforte, invariata Londra, il Dow Jones meno 0,30%. Euro su dollaro a 1,13, bene CNH Industrial, dopo i ribassi degli ultimi giorni non ci sono particolari notizie, più 5,60%, bene in generale le banche popolari, anche perché viene ufficializzata la cessione dell'Istituto Centrale di Credito, Pop Milano più 2,80%, Banco Popolare più 1,45%, fuori dal mondo delle popolari cito anche Unicredit più 1,90% e Mediobanca più 1,40%, Intesa San Paolo più 1,30% come UbiBanca. L'euro in leggero rafforzamento a 1,13,40 è pretesto per vendere alcuni titoli del lusso, penso a Ferragamo meno 1,25%, debole anche Tenaris meno 0,80 come Eterna e Enel Green Power. Autogrilla ha un po' recuperato nel finale, meno 0,20%, ieri era salita sull'annuncio del piano di buyback, di riacquisto, oggi un po' di presa di beneficio, un report negativo, ma alla fine ripeto meno 0,19%. E ancora, per quello che riguarda altri titoli, segnalo in positivo anche gli energetici Eni più 1,26%, Enel più 1,50%. Miglior titolo in assoluto Sintesi più 19,30%, Ecosumtech più 10,33%, EMS più 8,80%, Key Group più 8,10%. Poi sul fronte opposto risanamento meno 7,90%, Edes meno 7,80%. Fedon meno 6,45, primi sui motori meno 5,20. Oh, tocca tornare a occuparsi di Roma. Oggi veramente ha dominato la puntata per la vicenda che ricordavamo, ossia il fatto che la Ragioneria Generale dello Stato abbia dichiarato illegittimo il salario accessorio pagato dal Comune di Roma ai suoi dipendenti, 24.000, tra il 2008 e il 2013, lo decise la Giunta Alemanno. Perché illegittimo? Intanto la parte variabile dello stipendio è passata da 66 milioni di euro che pagava il Comune a 345 milioni pagati nel 2013. La ragioneria contesta che la parte variabile della retribuzione non può essere erogata a pioggia, ma deve essere agganciata a voci e funzioni precise. Sembra una banalità, ma in questo paese non c'è cosa più straordinaria delle cose banali. Altro, perché insomma mi sembra che dica una cosa normale, di un normale buonsenso, la ragioneria dello Stato. Invece avevano erogato a tutti la parte variabile. Il problema è che la ragioneria dello Stato fa notare che il buco, o meglio, se dovessero essere richiesti questi soldi, ma non si possono per una legge richiedere i soldi ai dipendenti, questo l'importo totale del buco per il Comune di Roma sarebbe di 350 milioni di euro che dovranno essere restituiti all'erario dal Comune, non dai singoli dipendenti, e che vanno a sommarsi ai crediti inesigibili del Comune che ammontano a 850 milioni di euro. La Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo di indagine, c'è un incontro, era previsto nel pomeriggio, tra il sindaco Marino e i sindacati in Campidoglio. Allora, Marta Paris del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. C'è stato l'incontro, ma soprattutto quali sono le prossime mosse? Perché i sindacati hanno già detto non si tocca lo stipendio dei dipendenti, e infatti la legge prevede che non si possa toccare. Si va a un buco ulteriore di 350 milioni? L'incontro è in corso ancora con i sindacati. Il problema è che il Campidoglio stamattina ha fatto sapere che il Ministero dell'Economia non è titolato a richiedere i soldi, e che semmai questo, l'organismo titolato a richiedere i soldi potrebbe essere la Corte dei Conti. Appunto, come hai detto tu, adesso la notizia che la Corte dei Conti del Lazio avrebbe aperto un fascicolo su questa vicenda. Quindi diciamo le osservazioni che sono arrivate dal MEF non sono una richiesta tout court di questi 355 milioni. Intanto li hanno bacchettati, mi dici tu, però il problema al di là del diciamo di questi soldi che devono essere restituiti, sì. Il Comune dice non, il MEF non li chiede, semmai ce li chiederà la Corte dei Conti. Il problema è che la contestazione del MEF va oltre, nel senso che in discussione non è solo la passata gestione, anche l'attuale gestione di Marino, il quale però appena arrivato ha fatto una due diligence dei conti e ha riscritto completamente la delibera sul trattamento accessorio, cercando di mettere dei criteri stringenti e vincolanti per riportare, diciamo, nella legalità l'attribuzione del salario accessorio. Ma il problema appunto è questo, che al di là della restituzione dei soldi, che sarebbe un fardello pesantissimo sui conti di Roma, che è riuscito comunque ad anticipare di un anno il piano di rientro previsto. Ma dicevi, al di là di questo, Marta, scusami? No, al di là di questo il problema è che la linea del MEF è intransigente anche sull'attuale gestione, quindi l'esito potrebbe essere che vengano, motivo per cui sono stati convocati i sindacati, che vengano bloccati anche gli attuali salari accessori dei dipendenti. Adesso ho capito, quindi adesso aspettiamo che finisca ancora in corso. Tu ci stavi dicendo l'incontro tra il sindaco Marino e i sindacati, non è dei gran mesi per il sindaco Marino, non sono dei gran mesi. E che possa l'iniziativa del Ministero dell'Economia e Finanze e della Ragioneria dello Stato applicarsi anche alla situazione attuale, non solo, diciamo, come bacchettatura, e poi vedremo se la Corte dei Conti chiederà i soldi, perché è l'unica titolata a farlo, al Comune di Roma. Staremo a vedere. Grazie intanto a Marta Paris, e da Roma ci spostiamo in maniera molto rapida a Taranto. Chiaramente parliamo dell'IVA, qui c'è una vicenda delicatissima. Dopo la morte avvenuta venerdì scorso di un lavoratore, Alessandro Morricella si chiamava, rimasto gravemente ustionato in un incidente verificatosi l'8 giugno, la procura di Taranto aveva ordinato il sequestro urgente e senza facoltà d'utilizzo dell'alto forno 2. Ora, se si blocca anche l'alto, stavano valutando i tecnici se bloccare anche l'alto forno 4. Praticamente si ferma tutta l'IVA. Vorrei un aggiornamento rapidamente dal nostro Domenico Palmiotti. Domenico, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. La valutazione sulla fermata anche dell'alto forno 4 è sospesa per il momento, nel senso che l'alto forno 4 continuerà a marciare, l'ILVA si preparerà a fermare l'alto forno 2 perché c'è un ordine della magistratura, però contro il provvedimento di sequestro nella prossima settimana gli avvocati dell'azienda faranno ricorso al tribunale del riesame. Queste sono le notizie emerse oggi. Perché, scusami, chiedo con ignoranza, se funziona solo l'alto forno 4, questo non garantisce, diciamo... Se funziona solo l'alto forno 4, i tecnici ritengono che questo non sia compatibile con uno stabilimento delle dimensioni di Taranto. Uno stabilimento come grande come Taranto non può reggersi solo con l'alto forno 4. Quindi, se dovesse essere confermato il sequestro dell'alto forno 2, dovrebbe anche essere bloccato l'alto forno 4. Cioè si blocca tutta l'IVA a questo punto. Certo, però la valutazione su questo punto è sospesa. L'alto forno 4 per il momento continua a marciare. L'alto forno 2 viene preparato alla fermata, perché l'alto forno è un impianto molto complesso, sì, molto particolare, richiede almeno 20 giorni prima spento. Di essere fermato. In questi 20 giorni l'azienda presenterà ricorso al tribunale del riesame e spera appunto di impugnare il provvedimento e di avere, diciamo, un esito favorevole, anche perché l'ILVA già oggi ha manifestato alla procura che le prescrizioni che lo Spesa l'ha ordinato giorni fa su quell'impianto sono state già applicate. Lo Spesa l'aveva dato che il servizio di prevenzione e sicurezza dell'ASL aveva dato 60 giorni per attuarle, l'azienda le ha attuate subito, quindi gli elementi di rischio che hanno portato la procura a decidere per il sequestro, secondo l'ILVA non ci sono più. Però ecco, chiaro, questa è la posizione dell'ILVA, staremo a vedere. Grazie anche a Domenico Palmiotti, un giorno poi arriverai anche a darci delle buone notizie, non che sia colpa tua, ci mancherebbe, sull'ILVA. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, un ringraziamento come sempre a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma anche questa settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.